bambini che il sole ha ridotto già. Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affocare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Ciao, buonasera, ciao a tutte le compagne e i compagni che seguono Radio Asilo. Fare delle trasmissioni radio in un contesto quale quello che stiamo vivendo, che è, diciamo, ecco, vabbè, la guerra in Ucraina. Una settimana fa ci eravamo lasciati, ecco, sembra che sia un nono giorno di conflitto militare. Noi ci eravamo lasciati una settimana fa, più una settimana fa, con l'inizio delle operazioni militari della Russia in territorio ucraino. Comunque, più si va avanti e più, diciamo, i problemi sotto tutti i punti di vista aumentano, così come più si va avanti, più si distorce la realtà. È chiaro che noi dobbiamo cercare di essere sempre più lucidi diciamo, al di là del fatto umano, che è un altro aspetto, ci mancherebbe altro, però noi dobbiamo mantenere una sorta di lucidità per capire, per analizzare quello che è, diciamo, come compagni italiani, di questa nazione italiota, meglio, una cosa dobbiamo è chiaro, evidenziare e denunciare con più forza. Cioè, l'Italia ha dichiarato guerra alla Russia, non in nostro nome, e in un contesto in cui questa dichiarazione di guerra dell'Italia alla Russia va ad inserirsi nella Fortezza Europa, che è, diciamo, ecco, quel che si evince è come la Fortezza Europa abbia vassalla e suddita degli Stati Uniti d'America e della NATO. E sono capitate due vicende che sono, come dire, un attimo, accendo una sigaretta, sono capitate due avvenimenti che, diciamo, sono molto pericolose e possono determinare dei precedenti altrettanto pericolosi. Partiamo dal fatto che il Parlamento europeo, come devo dire, sta mostrando al mondo intero il volto di un pacifismo, tra virgolette, basato sull'esportazione di armi, incitazione alla guerra, distorsione delle verità e negazione delle libertà di stampa. E infatti l'Unione Europea, alle sanzioni economiche, ha deciso per la prima volta nella sua storia, ricordiamo 1951, atto di nascita della Comunità Europea, 1957, Trattato di Roma, per un pacchetto di sostegno alle forze armate ucraine, per nuove sanzioni, per impegni diplomatici, per isolare la Russia, per misure a sostegno dell'Ucraina e della regione e misure per contrastare la disinformazione. Dal momento che c'è una guerra a tutti gli effetti in Ucraina, vogliamo fare di tutto per sostenere l'Ucraina, abbiamo deciso di usare le nostre capacità per forniture di armi, assistenza letale all'esercito ucraino. E l'Unione Europea ha ringraziato la Polonia che si è offerta di fungere da hub logistico per il trasferimento delle armi e materiale bellici in Ucraina. Un hub logistico è composto da una serie di strutture come capannone e depositi che si trovano in una posizione privilegiata, quindi strategica, per l'operazione logistica. Questo, diciamo, è quello che diciamo l'Unione Europea ha sancito. Inoltre vediamo che a sostegno di questa decisione dell'Unione Europea abbiamo avuto poi i vari singoli stati, come la Germania, che ha dichiarato che consegnerà missili anticarro e Stinger all'Ucraina, annullando la precedente opposizione di Berlino all'invio di armi. La Germania ha anche annunciato una riorganizzazione delle sue politiche di difesa e sicurezza in risposta all'invasione russa all'Ucraina, che vanno da pesanti investimenti nelle sue forze armate alla creazione di riserve energetiche strategiche, mostrando come la guerra di Putin contro l'Ucraina stia avendo ripercussioni in Europa. Poi abbiamo la Francia: abbiamo consegnato armi, continuiamo a consegnarne e aumenteremo le nostre consegne. E se noi andiamo, ecco, più avanti andiamo, l'elenco degli Stati europei fornitrici di armi a Kiev è molto lungo, diventa lungo. Vediamo che l'enorme quantità di armi che sta veicolando verso l'Ucraina sotto la gestione logistica della Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria e stati dei paesi dell'est componenti la NATO rischia di determinare un arsenale di guerra la cui gestione politica e quindi militare sarà affidata a fine conflitto russo-ucraino a quei paesi anticomunisti di destra, in primis la Polonia, dove le formazioni neonazi fasciste, ecco, come in Ucraina, hanno un'incidenza sulle politiche governative in quanto presenti anche nel governo. La Polonia xenofoba, che di democratico non ha proprio nulla, potrebbe diventare per la NATO il gendarme principe per le politiche atlantistiche della NATO nell'est europeo. È chiaro che a queste, diciamo, a questo lungo elenco di paesi europei non poteva che mancare la nostra nazione italiota, che rifornirà di armi l'Ucraina e non solo armi, ma anche esercito, quindi dagli alpini, che hanno tra l'altro addestrato i soldati americani della NATO nei contesti, diciamo, nelle condizioni di neve, quindi in contesti logistici di un certo tipo. E qua parliamo di centinaia di militari italiani. E con questa rifornimento di armi all'Ucraina e anche con l'invio di militari, l'Italia è di fatto entrata in guerra contro la Russia, andando così a dare un'ulteriore picconata alla Costituzione, anche se è bene ricordare non è la prima volta. Ricordiamoci l'Iraq, ricordiamoci la guerra giusta di concezione talamiana in Jugoslavia, quindi diciamo, ma questo assume anche un altro aspetto, un ulteriore aspetto particolare, perché come abbiamo detto l'articolo 11 è stato già violato più volte, e anche stavolta l'articolo 11 è stato violato. Ricordiamo un poco l'articolo 11 come recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizione di parità con gli altri Stati, la limitazione di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce l'organizzazione internazionale rivolta a tale scopo. L'articolo 11 della Costituzione fu scritto e pensato anche per consentire l'adesione dell'Italia all'ONU, che richiedeva l'ONU come condizione essenziale per tale adesione che lo Stato si fosse dichiarato amante della pace. E poi questo articolo si configura anche come essenziale per l'adesione alla Comunità Europea. Nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata in occasione del Consiglio nazionale di Nizza del 7 dicembre 2000, si dichiara che i popoli europei, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. E questo ci riporta a quello che dicevamo all'inizio di questo contributo di radio, quando dicevamo che il Parlamento europeo mostra al mondo intero il volto di un pacifismo basato sull'esportazione di armi, incitazione alla guerra, distorsione della verità e negazione della libertà di stampa. Allora, vediamo che appunto in pochi giorni sia la Carta dei diritti dell'Unione Europea che la nostra Costituzione sono stati totalmente violati in segno di fedeltà agli Stati Uniti d'America e alla NATO, determinando nell'attuale assetto geopolitico europeo un quadro che sarà destinato a creare ulteriore instabilità e conflitti, con gravi ripercussioni sulla tenuta democratica dei vari Stati e nazioni, coinvolgendo anche sino a poco tempo fa considerate civili e democratiche. È chiaro che, ecco, sono cose, tant'è vero, quindi quando diciamo si entra in un conflitto di guerra, è chiaro che diciamo non mancano mediaticamente le comunicazioni che si rifanno alla guerra, anche mediaticamente i simbolismi, gli aspetti. E infatti, per dire, non bastavano le comparse mediatiche del generale Figliuolo, che faceva sfoggio delle medaglie molto appariscenti sia in tuta mimetica che in divisa ufficiale. Ora, per dire, è entrata anche nella scena mediatica anche un certo generale Claudio Graziano, plurimedagliato, dobbiamo dire a questo punto, ad onore del vero, con un numero di medaglie di gran lunga superiore a quelle di Figliuolo, e con un, diciamo, un generale alpino, possiamo dire, per ogni emergenza. E questa era, diciamo, di cossighiana memoria, quando negli anni 70 Cossiga, quando è chiaro, in un paese con conflitti, movimenti, lotta, opposizione sociale, eccetera, eccetera, Cossiga disse: ci vogliono gli alpini per portare ordine. Quindi abbiamo un alpino per l'emergenza sanitaria, un alpino per lo stato d'emergenza per la guerra dichiarata da Draghi, uno stato d'emergenza che sino al 31 dicembre dal 2022, quindi dallo stato d'emergenza Covid allo stato d'emergenza guerra in Ucraina. Allora, il ruolo della nostra nazione italiota, atlantista, europeista, si rafforza, quindi nella fortezza Europa, ecco, si rafforza, e lo si può dedurre anche dalle affermazioni del plurimedagliato generale Claudio Graziano, che ricordiamo attuale presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, che è, diciamo, con questa espressione: chi attacca Kiev sono i nemici dell'Europa. Ora nasce la nostra difesa, stiamo per concretizzare una task force Unione Europea con 5.000 soldati pronta ad agire nell'azione di crisi. Poi se ne esce l'allerta nucleare ordinata dal Cremlino, è un segnale di minaccia. Ed il timore che Putin possa usarlo è tornato. Allora, quindi, allora, questo, diciamo, sono delle situazioni, come dire, alcuni piccoli esempi che anche mediaticamente, sto accendendo una sigaretta, che mediaticamente hanno riportato i classici climi da cliché, da climi di guerra, l'ostentazione delle medaglie, le interviste a vari generali, alcuni di loro che, diciamo, nel fare un'attenta riflessione pongono anche, come devo dire, delle indicazioni, il ruolo del Patto Atlantico, il ruolo della NATO, e vi dicendo, così come anche lo dicono in un modo spudorato che la NATO tende a determinare la NATO dell'Est. E diciamo, in questo periodo stiamo vedendo che l'Unione Europea si è consolidata intorno a quel che erano, che sono stati sempre i tentativi della NATO, consolidare e nello stesso tempo sostituire la NATO all'Europa e viceversa l'Europa che sostituisce la NATO, e quindi andando a sintetizzare quelle che negli intenti americani è da un bel po' di anni che stanno cercando di arrivare a determinare. Quindi possiamo dire che Biden, col suo l'America ritornata, un obiettivo politico l'abbia già raggiunto. Il primo obiettivo politico, e l'obiettivo di Biden è quello di cogliere due piccioni con una fava: da un lato la Russia e nello stesso tempo lanciare messaggi alla Cina, che è, diciamo, perché andando a consolidare l'Unione Europea attorno alla NATO si restringono anche i campi economici e finanziari che sono della Cina in Europa, ricordiamo. Allora, ecco il ragionamento che bisogna sempre. Allora, abbiamo detto, l'Italia ha dichiarato guerra all'Europa. E qua stiamo assistendo anche a un ruolo ipocrita, non solo del nostro governo, della nostra nazione, ma anche dell'Europa. è un ruolo molto ma molto ipocrita, non soltanto per la violazione, diciamo, delle carte costituzionali, della violazione di articoli in cui l'Unione Europea era un'unione politica delle nazioni e dei popoli contro la guerra, per la diffusione e la valorizzazione della pace, e utilizzare la politica come forma di andare alle risoluzioni dei vari conflitti. E quindi con questo schieramento economico, militare a sostegno dell'Ucraina, diciamo, l'Unione Europea ha mandato proprio ancora di più, come detto, nella pattumiera della storia, il ruolo della politica come asse nobile che riesce a risolvere i conflitti. Però questo non è che l'ha abdicato solo ora, l'ha abdicato rispetto alla Palestina, l'ha abdicato rispetto ai curdi, l'ha abdicato rispetto alla Jugoslavia, alla Siria, e poi questo lo affronteremo man mano che andiamo avanti. Ora, proprio perché l'origine del male sta sempre nell'imperialismo americano, ecco, andiamo John Bates con una canzone molto storica dedicata a Sacco e Vanzetti. Stavamo parlando appunto della dichiarazione di guerra che abbiamo visto prevede, ha previsto anche lo stato di emergenza che dovrà durare fino al 31 dicembre del 2022. Ed è chiaro che dichiarando guerra, come devo dire, alla Russia, è chiaro che noi dovremmo pagare pure le conseguenze. Ricordiamo che il 45% delle nostre forniture derivano dal gas sovietico, quindi immaginiamoci, noi quindi saremmo la nazione che andrà a pagare più di tutte a livello non solo europeo ma a livello internazionale. E, diciamo, questa è una situazione che diciamo, determinerà problemi non solo energetici, ma problemi occupazionali, e che diciamo, i nostri rifornimenti non le pagheremo più in euro, ma le pagheremo in dollari. Questa è la faccenda, andranno a costare due volte tanto, se non di più. Allora è chiaro che, per dire, nel nuovo, diciamo, ecco, come devo dire, alle sanzioni di carattere diciamo militare, ricordiamo, gli aiuti militari sono missili, mitragliatori, esplosivi, eccetera, a Kiev, no? È chiaro che diciamo, in questo decreto, in questa diciamo, dichiarazione di guerra, è corrisposto questo decreto del nuovo stato d'emergenza. Quando uno stato si crea uno stato d'emergenza in un contesto ben chiarito, armi, è chiaro che avremmo uno stato d'emergenza che poi dovremmo andare a vedere con le evoluzioni o involuzioni in terra ucraina cosa significherà sotto tutti i punti di vista. Partiamo da quello, diciamo, che riguarda il problema del razionamento del gas, che già si parla di razionare il gas, e scatterà diciamo, un programma di massimizzazione dell'impiego delle centrali a carbonio, olio, combustibile. E poi, ecco, in altre, questa sembra più una battuta, ma non so se scientificamente o ingegneristicamente è possibile, che per farmi andare avanti le macchine italiane, come ha detto Cingolati, basterebbe anche l'olio di ricino, ma non so se queste sono affermazioni di Cingolani. E quindi cosa vuol dire questo? Che ripristinare l'impiego delle centrali a carbone significa che almeno ricordiamo che tutte le centrali a carbone per il PNRR entro il 2025 dovrebbero chiudere. Quindi è saltata già quella componente con cui ci hanno proprio, non voglio dire una brutta parola, ci hanno, come dire, a livello mediatico per la questione energetica, l'ambiente, la difesa dell'ambiente, questo eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, ora diciamo, quelle centrali che dovevano chiudere entro il 2025, ora ripiglieranno, saranno costrette a ripigliare in piena efficienza. Così come anche la questione della trivellazioni per pigliare il gas, ecco, il TAP diventerà come devo dire, per l'economia nazionale italiota, diventerà estremamente importante. E quindi anche avrà, quindi, come devo dire, sarà un punto di vista strategico, ma anche militare. È chiaro che poi anche la questione, accanto a questo, è chiaro che si accompagna anche, dipende, come devo dire, è una conseguenza matematica, seppur convalidata dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa, il valore del nucleare civile. Quindi noi, ecco, una cosa vogliamo dire a questo punto: quando ci sono state le mobilitazioni contro il G20, vediamo che molte delle quali risoluzioni sono state segretate, quel che stiamo verificando erano che tutti i nostri timori, tutte le nostre preoccupazioni, sia in termini militari, sia in termini di assoggettamento alla NATO e agli USA, ora tutti i nostri timori paradossalmente si sono concretizzati. E questo è un fatto molto, ma molto pericoloso. È un fatto molto pericoloso perché quando diciamo, noi abbiamo, cominciamo da un punto di vista culturale, no? Quando si entra in guerra, quando si dichiara uno stato di emergenza in guerra, ci sta anche l'aspetto di carattere della censura mediatica e del far veicolare comunicazioni culturali che si riferiscono alla guerra. Cioè tutto, quindi quando si dichiara guerra cominciano le propagande, le pubblicità, tutto ciò deve essere veicolato alla guerra. Deve essere veicolata alla guerra. Ecco, noi abbiamo visto il classico esempio di quel che è capitato alla Bocconi, che è, si doveva tenere un corso su Dostoevskij e il rettore e la rettrice l'hanno vietata, seppur dopo hanno capito, insomma, però il messaggio era chiaro, e questo è un fatto pericolosissimo, così come per dire le Olimpiadi paraolimpiche, è stato vietato ai poveri disabili russi, bielorussi, tutti di partecipare, sono cose vergognose. E così come anche se qualcuno pone il dubbio su questa, non solo sul ruolo dell'Europa, della NATO, ma sul nostro dichiarare guerra alla Russia, qualcuno pone un dubbio, subito viene tacciato come nemico dei bambini ucraini che soffre, come alleato di Putin, come favorevole all'aggressione russa in terra ucraina. Questa è una cosa molto vergognosa. Allora a questo punto noi dovremmo bandire dalle nostre tavole anche l'insalata russa, proprio perché si chiama russa, quindi tutto ciò che proviene da quei paesi legati alla Russia deve essere culturalmente, come devo dire, censurato e bypassato. Così come anche sono molto strane alcune cose. In una trasmissione sono capitato ad un generale che ha un ruolo di consigliere militare da un giornalista ucraino, hanno avuto dei lapsus che invece di parlare della Russia parlavano dell'Unione Sovietica, e poi in un modo come se facesse parte anche di un copione da recitare, no? In cui vogliono unire una questione contro la Russia, una questione proprio contro la storia dell'Unione Sovietica, quindi funzione anticomunista, e assimilare la Russia al comunismo, all'Unione Sovietica e via dicendo, perché è chiaro che in tutte queste situazioni quello che ne esce fuori è proprio lo spirito anticomunista prevale. Allora è normale che noi come compagni, questi timori, ma anche la questione che fa proprio che è vergognosa, è la questione che, come devo dire, tutti recitano un copione, in principal modo senza porre un minimo di dubbio, ma proprio un minimo di dubbio su quel che significa questa dichiarazione, il rifornimento di armi a Kiev. Allora, ma quello che è la cosa che più fa schifo, scusatemi, è il ruolo di questo centro-sinistra, insomma. E il ruolo anche dei giornali atlantisti per eccellenza, come europeisti atlantisti per eccellenza, La Repubblica, La Stampa, non voglio fare pubblicità, però alcune televisioni, ma abbiamo anche addirittura delle cose vergognose, come per dire il TG2, che addirittura ha mostrato dei video, almeno questo l'hanno visto molti compagni, hanno mostrato una bambina che era una bambina palestinese e l'hanno fatta passare per una bambina ucraina, hanno fatto dei videogiochi, hanno mostrato bombardamenti diciamo nei territori palestinesi e l'hanno fatto passare come bombardamenti di palazzi ucraini, cioè ma siamo proprio, ecco dov'è la cultura della guerra, il clima di guerra e via dicendo. Ed è chiaro che, come dire, è normale, siamo attenti perché la guerra è una cosa, la guerra come tutte le guerre sono atrocità, ci mancherebbe altro, è chiaro che, come debbe dire, ci mancherebbe altro, insomma è normale che dobbiamo sostenere queste poveri, allora chi scappa dall'Ucraina. Però ecco qua poi abbiamo, ecco, profughi di serie A, profughi di serie B. Ora addirittura Salvini ha detto che andrà in Polonia a prendersi questi i profughi polacchi e i profughi ucraini. Mentre noi abbiamo i profughi africani, i profughi siriani che stanno disseminati, cioè che, come devo dire, le stesse nazioni come la Polonia, l'Ungheria, che hanno Cecoslovacchia, che hanno eretto muri filospinati per impedire questa povera gente che con il freddo, con bambini che sono morti per assideramento, nessuno ha detto niente, nessuna sanzione all'Ungheria, nessuna sanzione alla Polonia, anzi questi qua verranno addirittura premiati. Ecco che ora il mondo dovrà, l'Europa dovrà, come devo dire, guai a chi non, come devo dire, non sostiene, ci mancherebbe altro sull'aspetto umanitario, non confondiamo, che le mie parole non vengano fraintese. Mi sembra di rivedere quando la Polonia, quando il mondo intero, per i meriti della Polonia ad aver contribuito all'abbattimento alla sconfitta, all'abbattimento del patto di Varsavia in funzione anticomunista, guai insieme alla Chiesa, guai a chi non dava ospitalità ai polacchi, era considerato un nemico del popolo italiano. Quindi questa è la faccenda, una faccenda, come dire, abbastanza delicata, e gli scenari che avremo ancora non lo sappiamo. Ora mandiamo un attimo un altro contributo contro la guerra. Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality pursued but never attained. Now everywhere is war, war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south, war, war. Rumors of a war, and until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Allora, ritorniamo a quello che stavamo dicendo prima. Chiaro, ogni tanto squilla il cellulare e non ho pensato abbassare il tono, il volume. E, è chiaro che proprio come stavamo dicendo prima, lo spettacolo che sta dando tutto ciò che riguarda l'aspetto mediatico, i giornali, le televisioni, e che è, come devi dire, la stampa, non che qualcuno mi può anche criticare, siamo in una stampa di regime e di guerra, e lo si nota in tante piccole ma importanti sfumature. Allora, ieri c'è stata una trasmissione in collegamento con un giornalista ucraino a Kiev, che qualcuno gli ha posto il problema dell'armata, delle armi, che dove andavano a finire, perché qualcuno dice: scusate, ma noi l'esercito ucraino, dicevano in questa trasmissione, non lo si vede. Qualcuno ha posto un problema, ma questa, ripartendo dalle motivazioni del perché Putin e l'esercito russo abbiano iniziato le operazioni militari. E ricordiamo la questione della denazificazione dell'Ucraina. Allora, il giornalista, quasi arrabbiato, se n'è uscito dicendo: ma comunque sono dei patrioti, chi combatte come sono dei patrioti. A che il conduttore della trasmissione, di fronte a questa uscita, che poi in un modo anche aggressivo verso chi poneva e offensivo questa problematica, il conduttore ha subito, quasi accelerato, la chiusura di questo collegamento, interrompendolo sotto alcuni aspetti, perché stava uscendo fuori una delle grandi contraddizioni, perché sul concetto della denazificazione dell'Ucraina, e i riferimenti a queste a questo ruolo delle organizzazioni e degli apparati militari nazifascisti, in cui più quello più diciamo consistente il battaglione Azov, allora lui veramente è stato, come devo dire, nel suo modo se ne è uscito da quella logica giusta della pace, ci mancherebbe altri, i bambini che muoiono, eccetera eccetera eccetera eccetera, e ha fatto uscire fuori quel che, diciamo, molti compagni, molte realtà sta ponendo come dubbio: a chi vanno queste armi? A chi vanno queste armi? E la questione del Donbass, che è stato quello che ha motivato anche le incursioni militari, che mai nessuno vuole affrontare, tranne in qualche rara eccezione, lui è, diciamo, indirettamente ha fatto uscire fuori questo aspetto, a molti sottaciuto, anche perché noi non sappiamo. A noi ci vengono propinate, è chiaro, ci mancherebbe altri, i carri armati, i tank, eccetera eccetera eccetera, però noi non sappiamo concretamente, non abbiamo concreta, anche perché i giornalisti, e come noi sappiamo bene, una delle vittime della guerra è sempre la verità. Quindi o è distorta o è veicolata, ma una verità obiettiva rispetto agli avvenimenti viene sempre distorta. Vi sono dei dubbi. Allora è bene ricordare e riparlare, sul concetto, sulla questione della nazi Ucraina. Vediamo che in Ucraina dal 1991 esistono ed operano formazioni politiche paramilitari nazifasciste che sono appoggiate e sostenute da Kiev, sono state appoggiate, lo sono anche, e persino addestrati, modello Contras in Nicaragua, da istruttori militari NATO in funzione antirussa. Le formazioni paramilitari nazifasciste hanno commesso numerosi crimini sanguinosi contro i civili nelle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, e di questo nessuno ne parla. E quello va a dire, in queste trasmissioni, in questi giornali, in queste democratiche, queste cose si dovrebbero parlare. Però ora, il copione da recitare che tutto ciò che è russo è il male. E tra i gruppi neonazisti ucraini il più forte è il battaglione Azov, nato il 2014 a Mariupol, città ucraina affacciata sul Mar d'Azov, e proprio questa è una delle città dove stabilmente questo battaglione Azov ancora permane, ed è anche il luogo dove, diciamo, ci sono più recrudescenze di guerra, il conflitto pesante di scontro con l'esercito russo, il cui leader, ricordiamo, di questo battaglione Azov è un certo Andriy Bilevskiy, militare noto con l'appellativo del Führer Bianco, sostenitore della purezza razziale ucraina. Il neonazista battaglione Azov inizialmente operava da milizia irregolare che combatteva contro i ribelli ucraini e filorussi e che si è macchiato di numerose atrocità, comprese quelle di bruciare vive delle persone, dei compagni, il caso di quello compagno con la bandiera rossa bruciato vivo, questo si è perso come immagine. Contro la popolazione civile, sia nel settore di Mariupol quanto negli oblast orientali di Kharkiv e Lugansk. Le atrocità del battaglione d'Azov furono denunciate sia da Amnesty International che dall'OSCE, e nonostante tutto, nell'indifferenza degli stati occidentali addirittura, tale battaglione divenne così imponente da essere inquadrato nella Guardia Nazionale sotto il controllo del Ministero degli Interni per sfruttare al meglio le milizie rivelatesi cruciali per arginare l'avanzata dei ribelli nel Donbass. Bilevskiy ottenne il grado di colonnello ed una medaglia a valore per aver guidato la squadra che probabilmente lo era ed è ancora al fronte. più efficiente come squadrone. Ora l'Azov conta, cioè almeno fino a qualche mese fa, 1260 effettivi ed è un reggimento di forze speciali e viene addestrato da istruttore nato, ma ha mantenuto le insegne che ricalcano gli emblemi della SS naziste sopra il cosiddetto sole nero, un altro simbolo caro a Hitler. Dal febbraio 2019 è dislocato nuovamente in Donbass e quindi, come diciamo, è attualmente impegnato in prima linea contro le forze armate russe, ma contro le armate russe. E vediamo che Azov non è solo un reggimento, è anche un movimento politico. Il movimento d'Azov ha tentacoli in tutta Europa, anche oltre, e insieme ad altre organizzazioni formano una rete nera di reclutamento internazionale che richiama neonaziste e suprematisti bianche da entrambe le sponde dell'Atlantico, guadagnandosi il soprannome di Legione Nera Ucraina. E infatti centinaia di giovani giungono da luoghi diversi in Ucraina per combattere tra le sue file. E una volta questo è successo, hanno sempre mantenuto questa rete neonazista internazionale i contatti. E vi ricordiamo che alcuni militanti Casa Pound, insomma, sono addestrati anche nel battaglione dell'Azov. E vediamo che un'altra operazione meschina, loro hanno lanciato un appello internazionale di volontari a combattere con l'Ucraina e qualcuno si è permesso addirittura di eguagliare le milizie internazionali per fronteggiare il franchismo, il nazismo e il franchismo in Spagna a questo battaglione, a questa armata che, vedendo ciò che è successo fino a qualche mese fa, prima dell'inizio della guerra russo-ucraina, quindi chi saranno queste brigate internazionali, facendo per una questione anche di sintesi, se all'epoca fino a qualche anno fa c'era questa rete internazionale nera, è normale che le brigate tenendo conto anche di civili che sono andati, si recano là per difendere, di passare nella loro nazione, ci mancherebbe altro, però è chiaro che dobbiamo tenere in conto anche di queste brigate nere internazionali. E la reazione appunto di questo giornalista di Kiev, ufficiale di un giornale di Kiev, è la sua reazione nevrotica, isterica, aggressiva, tant'è vero che lui ha detto: come ci criticate a noi, e su questo non aveva tutti i torti, voi avete la Folgore che è storicamente considerata essere un reparto militare di destra, e su questo non aveva torto, però è come che questo aspetto, l'avesse colto in fallo, ed ecco perché il conduttore ha subito chiuso il collegamento con lui. Allora, ecco, per finire, mi sembra che manca poco tempo, ribadiamo sempre che la guerra, come tutte le guerre, sono atrocità. E ricordiamo che, come tutte le guerre, specialmente imperialiste, colonialiste e ad sfondo etnico religioso, determinano solo atrocità per i morti civili, gli esodi, le macerie. E lo sanno molto bene i palestinesi, i curdi, i siriani, gli yemeniti, gli iracheni, gli afghani, gli africani. L'elenco è lungo. Allora, e mentre noi abbiamo che in Israele, nonostante le tantissime risoluzioni ONU, così come la questione curda, però nessuno prenda provvedimenti di sostegno reale verso questi due popoli che sono nei quali ci sta in atto un vero e proprio genocidio, è chiaro che E no, qualcuno pone la domanda, siamo d'accordo, la guerra è un'atrocità, però anche noi siamo oggetto di genocidio come popolo palestinese o popolo curdo. Allora, perché, ecco, l'Europa civile non lancia la proposta a partire proprio da questo avvenimento in Ucraina, per lanciare la proposta di una conferenza internazionale di pace dove si affrontano i problemi palestinesi, curdi, ucraini? Perché il problema qual è? Oggi è l'Ucraina, ma domani potrà essere anche nell'area indo-pacifica, dove, come devo dire, dal Giappone a Taiwan, come gli accordi ratificati con l'America per entrare nella NATO o per dispiegare i missili, come a Tokyo, che diciamo ha ratificato l'accordo con gli Stati Uniti d'America per i missili diretti e indirizzati contro la Cina e contro la Corea del Nord. Compagni, siamo arrivati al termine, un abbraccio e manteniamo la nostra lucidità, ma principalmente la vigilanza. Ciao, alla prossima.